Si tratta di una manifestazione che parte proprio dal cuore, dalla pancia della società civile, che si in questa occasione veste proprio i panni dei musicisti, perché è una manifestazione musicale nata da un'idea diciamo collettiva, ma la città che porta la bandiera insomma è stata Firenze. Quindi tutti i musicisti, ma professionisti e no, sono invitati il 4 giugno a Bologna, appunto la data è il 4 giugno alle ore 18 in Piazza Maggiore, per partecipare a questa manifestazione collettiva dove non c'è veramente separazione tra pubblico ed esecutore, dove tutti suoneremo con la propria abilità e la propria volontà qualcosa in nome di quello che sta succedendo in Palestina e che sta ormai scuotendo gli animi a tal punto che noi società abbiamo bisogno di dire la nostra in modo perentorio. Tutto ciò ufficialmente, oltre che l'impegno che ho appena descritto, sei? Io sono un musicista, un violinista in forza al Teatro Comunale, nonché direttore d'orchestra, e in tutto ciò avrò il folle compito di tenere le fila del discorso, perché contiamo di avere veramente tantissime persone, ognuno insomma con il proprio apporto musicale. Io cercherò di tenere in mano un po' la situazione. Qui a Bologna la particolarità è che siamo riusciti ad organizzare l'esecuzione di un bolero di Ravel, che è proprio per noi il simbolo di quello che è il nostro messaggio, cioè un sassolino gettato nello stagno che piano piano, da onda dopo onda, si allarga e porta veramente a coinvolgere tutti. Quindi ci sono ragazzi di tutte le scuole, ci sono professionisti, ci sono amici. Questo sarà l'inizio, come dire, la chiamata della piazza. Poi dopo si alterneranno altri brani, finiremo con un bella ciao che insomma veramente coinvolge tutti. Avremo anche colleghi, amici coristi che canteranno Lacrimosa di Mozart, e adesso stiamo ancora mettendo appunto gli ultimi brani. Sono tutti scaricabili, si trovano tutti insomma online, perché la rete dei musicisti è attivissima in tutta Italia. Palermo si sta dedicando all'archivio, Firenze alla divulgazione, insomma all'organizzazione. Quindi insomma siete tutti invitati, mi raccomando.